24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la crisi finanziaria che sta interessando Italia e Spagna. Bruxelles esclude piani di salvataggio per Roma e Madrid, ma intanto si intensificano i contatti ad alto livello per monitorare la situazione. Nuova giornata nera per le borse. L'Europa intanto fa scattare nuove sanzioni per la Siria mentre l'Italia richiama il proprio ambasciatore. Sempre alta la polemica nel bel paese sui costi della politica. Oggi vi spiegheremo come funziona in Germania e vi spiegheremo come la crisi stia spingendo molti politici europei a inaugurare le vacanze low cost. L'ennesima giornata nera sui mercati ha fatto scattare l'allarme rosso in Europa per le grandi economie periferiche dell'Eurozona, Italia e Spagna. La portavoce della Commissione europea, Chantal Hughes, ha escluso un qualsiasi piano di salvataggio per Roma, Madrid o Nicosia, aggiungendo che Bruxelles è pienamente fiduciosa sulle misure prese per l'economia italiana. Ma al di là delle rassicurazioni, i segnali restano evidenti. Ieri sera il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha parlato al telefono con il commissario europeo Olli Rehn e oggi lo stesso Tremonti vola in Lussemburgo per incontrare il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. Anche ieri, come dicevamo, è stata una giornata da dimenticare sui mercati, con il FTSE All-Share che ha perso il 2,51% e il FTSE MIB meno 2,53%. Un'altra caporetto per gli spread, i differenziali BTP Bund hanno toccato il massimo storico di 384 punti prima di scendere sotto quota 370. I Bund tedeschi hanno visto scendere, al contrario, i propri rendimenti. Quello a 10 anni è sceso al di sotto del tasso di inflazione in Germania per la prima volta dalla riunificazione nel 1990, passando a 2,395% contro un'inflazione che, pensate, è stata del 2,4% anno a luglio. Alta tensione anche in Spagna, dove l'Ibex ha perso oltre il 2% e il premier Zapatero, uscente, ha rinviato le vacanze per seguire da vicino l'evoluzione della crisi. Torniamo ora a Piazza Affari nel servizio La Cronaca. Nuova giornata nera per le borse europee, in particolare per Milano, che ieri ha accelerato al ribasso dopo la notizia dell'incontro previsto per oggi tra il ministro dell'economia Giulio Tremonti e il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. A Piazza Affari, dove sono crollate Fiat meno 8,4% e le banche, il FTSE MIB ha così ceduto il 2,53% e l'All-Share il 2,51%. Male anche Francoforte, meno 2,1%, Parigi meno 1,5% e Londra meno 1%. Con Fiat è caduta tutta la galassia Agnelli dopo il dato sulle immatricolazioni di luglio. Fiat Industria ha così ceduto il 6,18% e la controllante Exor il 6,3%. Giù anche tutto il settore del cemento, penalizzato ancora dal profit warning della francese Lafarge e dalle preoccupazioni sulla ripresa economica. Il saldo finale dice Buzzi meno 6%. Ancora realizzi infine, come detto, su tutto il comparto bancario, con le vendite che colpiscono indistintamente gli istituti di credito italiani. Unicredit e Intesa a San Paolo perdono oltre il 5%. Ceo Condina da Radio Corp e Radio 24 e Sole 24 Ore. Intanto l'Ocse fa sapere che il piano di riassetto per la Grecia può avere successo. Il servizio. La Grecia può farcela, dice l'Ocse, ma deve continuare con le riforme strutturali. Atene registrerà una recessione anche quest'anno e una leggera ripresa prevista solo nel 2012 grazie a investimenti e ad export. Il piano di riassetto di bilancio può avere successo, dice l'Ocse, solo se le riforme fiscali saranno portate a termine senza sbavature, nonostante le forti proteste sociali. E a quel punto il debito, dopo aver toccato un picco nel 2013, potrà scendere sotto il 60% in 20 anni. Anche le banche greche dovranno cercare alleanze o fusioni con istituti esteri. La strada è in salita e il piano di riforme imponenti, ma l'aumento dell'export segnala che i primi frutti cominciano ad arrivare. I greci hanno cominciato a consumare e a guadagnare meno e a lavorare di più, con maggiore equità sociale. Era questa, secondo l'Ocse, la scelta verso l'Europa che avevano fatto, ma che per troppi anni lo avevano dimenticato. Vittorio Darold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro fronte caldo in questo primo scorcio d'agosto è la Siria. Scattano le nuove sanzioni europee e Roma richiama l'ambasciatore italiano di fronte a quella che il ministro degli esteri Franco Frattini ha definito l'orribile repressione contro la popolazione civile. Frattini ha proposto il richiamo degli ambasciatori di tutti i paesi dell'Unione Europea presenti a Damasco. Ai nostri microfoni il sottosegretario agli affari esteri Stefania Craxi spiega il motivo della decisione. Per alzare la pressione nei confronti del regime siriano e manifestare un sentimento di condanna per l'orribile repressione messa in atto. E naturalmente tutte le altre azioni stiamo continuamente concordando con l'Unione Europea. Mentre ci stiamo parlando, è in corso una riunione dei ambasciatori dell'Unione Europea in Siria, a Damasco, per vedere quali ulteriori misure predisporre. A cosa si può pensare? Beh, si potrà pensare al ritiro definitivo delle rappresentanze diplomatiche, e comunque si sta continuando a lavorare sia sul fronte dell'inasprimento delle sanzioni economiche, sia sull'ottenere una condanna, una risoluzione di condanna dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione che è avvenuta questa notte su richiesta del governo italiano è stata una riunione terminata con nulla di fatto, ma con l'idea che entro 48 ore si dovrebbe giungere si spera una condanna. La situazione non è facile, perché alcuni paesi di fronte a queste ipotesi si sono tirati indietro, ma si sta continuando a lavorare. Per esempio Brasile, India e Russia hanno espresso una condanna verbale, ma sull'ipotesi di una risoluzione ancora non c'è un accordo. La forza NATO in Kosovo, la KFOR, ha chiesto l'invio di truppe supplementari dopo l'escalation di violenza della scorsa settimana. L'Unione Europea è pronta a fare la propria parte ed è per questo che il mediatore Robert Cooper si è recato nella regione. Lo ha riferito Michael Mann, portavoce dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton. Italia ancora alle prese con i privilegi dei parlamentari. La proposta è arrivata dal partito Italia dei Valori: abolizione dei vitalizi e sostituzione con un regolare sistema previdenziale. Ma l'ordine del giorno è stato dichiarato inammissibile dal presidente della Camera, Gianfranco Fini, perché, ha spiegato Fini, secondo la Consulta non possono essere intaccati i diritti acquisiti e restano ammissibili solo gli ordini del giorno con riforme che abbiano efficacia nel futuro. E a proposito di privilegi, le vacanze dei deputati iniziano oggi. Se i lavori di Montecitorio riprenderanno il 5 di settembre, l'Aula della Camera riprenderà le sue sedute il 12, una settimana di ritardo, poiché circa un centinaio di parlamentari farà un pellegrinaggio. Manfred Kolbe, deputato tedesco della CDU, ci racconta ora come funziona in Germania uno dei punti molto discussi da noi, cioè il rimborso dello stipendio dei collaboratori dei parlamentari. Sentiamo su questo prima Kolbe e poi Gian Antonio Stella, giornalista, autore del libro La Casta. Qui in Germania abbiamo un certo rimborso per spese di assistenti parlamentari, ma questo rimborso non va al parlamentare, ma va direttamente all'assistente parlamentare. E se noi non abbiamo assistenti parlamentari, non abbiamo rimborso. Cioè, nessun euro di questo rimborso per assistenti parlamentari va attraverso le mani del parlamentare, va direttamente all'assistente. Se uno non assume, non ha nessun rimborso. Gian Antonio Stella. Da noi è tutto diverso, al punto che quando un parlamentare paravia, un senatore di Alleanza Nazionale, chiese all'allora segretario generale del Senato cosa poteva fare con quei soldi, ha avuto la risposta ufficiale, che abbiamo anche pubblicato sulla carta. La risposta ufficiale era: se vuoi pagare un collaboratore lo paghi, se no si tenga. Che fanno larga parte di questi parlamentari. E da oggi, come dicevamo poc'anzi, deputati italiani in vacanza, ma è tempo di vacanze anche per i politici stranieri, che però quest'anno sembrano aver scelto le vacanze low cost. Ricordate la vacanza esagerata? Ecco, con l'aria che tira non è più tempo. Anche i potenti della terra, a furia di parlare della crisi, soprattutto di quella degli altri, hanno capito che è meglio non farsi notare. Borse basse, profilo basso. In prima fila la potentissima Angela Merkel in vacanza in Tirolo, in un piccolo hotel a mezza pensione, coi suoi maglioni sembra la moglie di una guida alpina. Anche il premier inglese David Cameron, come sapete, divide in Valdarno una casa con amici. Austerity pure, tanto che al bar non lascia neppure la mancia, cosa grave per un cittadino di sua maestà, figuriamoci per il premier. E se Obama torna alle Hawaii, che tanto male non sono, il povero Zapatero, vista la malparata, opta per l'austero parco nazionale di Donana. Solo Sarkozy tiene in alto la grandeur francese stando in villa, quella di Carla a Cap Nègre, sud della Francia. Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così. Insomma, anche i potenti piangono. I più furbi, come al solito, sono i politici italiani, che mentre predicano i campus di lavoro estivi per uscire dalla crisi, poi vanno in elicottero alla sagra del peperoncino. Siamo un popolo di santi e navigatori,